metto gli occhi dall'antenna, eh? Me lo fai. Subito che siete già ricollato, non mi scusso Antonio, Bengolino, che già lo sai, eh? Già esci con 5 di la base e tu mi rompi le scatole, eh? Per la pezza. Mi sembra il mio, cagliari, perché si rompe il tuo rompe. Senti cosa che fa, senti cosa ha detto questo bombolino. Facevo incanti di condizionamento. è una sorpresa che cosa va fatta. È un'amica tua, amica tua, amica mia, da ho capito. E amici miei, beh, ma forse mi hai fatto mettendo un po' di tenuto del vulcano, vuol dire che mi senti da vicino o da lontano? Ma io te l'ho già dato il mito del vulcano, hai capito? Ce l'hai mettura tu il mito del vulcano, capito? Che ti fai sentire da vicino e anche da lontano. Gatta, gatta, no, sono il figlio mi qua adesso, la bottiglia del mito del vulcano. Positivo, positivo. Il mito del vulcano, cioè è un affare nuovo. Un coso, è un pezzo di una cosa fatta tutta macellata e poi c'è un coso, un po' di coso, di foglie, di mirto, un po' di così, capito? Poi ci ha fatto non è troppo forte, è quello del vulcano, te ne bevi mezzo bicchiere e ti fa sentire da lontano, da vicino, da vicino alla notte. Lo senti nel naso e anche nella gola. Era così potente, io non so, ma il ministro del vulcano si può sentire la vicino la molto lontano. È così. Come risparmi la c'è di uno e tutti gli altri sono nessuno. Allora il ministro del vulcano lo bevi da vicino e lo senti anche nell'ano. Il ministro di Luigi il vulcano ti fa sentire da vicino e anche all'incontrario, grazie. Allora, Sirimo, il mito di Luigino è un'altra cosa. Il mito di Luigino serve da vicino. Il mito di Vulcano serve da lontano. In definitiva è così, dai. In alternativa siamo quello da lontano, allora. Ciao, lui. Yeah, ciao, Claudio. Ma adesso facciamo quello dalle foglie. Adesso lo compro un po' d'alcol e lo faccio dalle foglie, quello bianco. Quindi il mirto bianco con quello che vicino alla Landrica. Sì, no, con le bacche bianche no, con le foglie, capito? Perché con le bacche bianche non c'ha, così mi hanno spiegato chi fa visto, non c'ha, manca una sostanza che hanno le bacche rosse, che invece le bacche bianche dice che non hanno. E per dargli un gusto buono devi mettergli le foglie, se no quel mirto bianco, le bacche bianche non danno, dice gli manca una sostanza, non so che cosa sia, per uscire buono, capito? Capo, io non avevo mai quel gusto mirto rosso. Quello rosso da fare insomma è questo strano. Mi sembra un favore che mi dell'altro giorno, ma lo vedremo. Perché le foglie di mirto sono così, non c'è niente da fare, bisogna usare altre foglie, quelle che usava da Melepa. Ecco le ricco di Giulio. Cariglia. E poi Gubugli. Ho bevuto l'acqua vita della Pix da fatta dai Zicchirilli e ti dico l'ho bevuto, un mio collega la faceva, adesso non lavora più con me, e la faceva non lui il padre, e una notte una cena siamo andati, aveva compiuto mi pare 40 anni aveva fatto, e quando aveva compiuto 40 anni aveva organizzato una cena la notte per la sua. Abbiamo guardato, il padre l'aveva fatta sia dalle vinacce, l'aveva fatta dalle pere, dalla mera, dalla figa d'India e poi da un'altra cosa, sempre massaggiata tutta l'acqua vitte, però la migliore era sempre quella delle vinacce, delle vinacce. Però l'ha fatta sia da fichi d'India, da pera e da c'era leggermente il gusto, però a me non mi piaceva quella fatta da né dalla pere né dalla mera, non mi piaceva. Io ho assaggiato quella di Rao, mi sembra, no, non me la metto, quel coso che c'è, quella piantagione che c'è di fichi d'India a Berchita. Avevo assaggiato la marmellata e poi un liquore che avevano fatto ed era buono, non era malvagio, dai, andava bene, però l'acqua vitta non l'avevo mai assaggiata, la verità si dica. Sì, allora la marmellata l'ho fatta pure io, l'ho fatto sia da marmellata. fatta buio. Però la procedura per la polvite è una cosa che quando te la spiega come l'ha fatta, la mela, la pera, la piccola, deve lasciare proprio a macchine tutta la parte pratica, non succio 10 proprio o meno. Hai compreso? La, deve marcire. E quando marcisce mette anche in vimbi, ecco, vuole fatta a marcire le mele, lasciate a marcire il buio, non hai capito? E poi capo è tu succio bianco. Se tu succio bianco la trattane della sera e poi fa la polvite, no? Non lo so. Comunque deve marcire, deve lasciare a marcire, capito? La mucchia non costa quanto a marcire. Sai, pone muffa, perché non mi sembra una cosa tanto, eppure la fanno, e mi ha spiegato come la faceva, dice lo succio che unisci, che si fermenta l'azoto, dice, no, è una cosa tifosa, la vermellata la frutta è buona, è sana, quella che dopo, però quella lì deve lasciare marcire proprio, capito, per la tua, puoi immaginare. No, cosa va in meglio, no. Guarda, Gabriele, tu cos'è che lasci marcire? L'uccello? Sì, c'è una ricca che si è guastato qua. C'è una ricca, rimosso in gabbia. No, ci vedo qui altri clienti, Ah, ma ti sei venuto il Natalino, Mamma mia. Il Natalino l'altro giorno ho sentito cantare. Giu, vieni qui, vieni là, tric e tra. Ma canta poco quello di Natalino, canta poco, capito? Non canta, non strilla molto, capito? Non riesce, gli scappano sempre, capito? Perché non canta molto quell'uccello lì. Sì, anche non canta, Quando canta te lo faccio sentire, e di vero è. Come lo canta la giaccia, Grazie, a me lo fai sentire. Come lo canta la giaccia, Natalia, Gisino Vulcano vuoi far sentire? Fallo sentire a Giulietta, che a Romea. Il canarino, tu capite cosa male. Tu capite sempre male, capite io. Che è Gisino? Ah, il canarino quello dell'altra volta? No, quello c'è Cinguettas. Canarino nella gabbietta. Oh, quanto Cinguetta, manchi ta mesa bottiglia. Alla città tumbata. Troviaia. Vabbè, pazienza. Già vabbè, avanti un altro. Avanti Luigi Vulcano, K. Mira che sto facendo il bambinaio qua, che sto controllando a Alessandro, che sta facendo la monello con la bicicletta. Ah, fai, vedi buco la ruota Alessandro io. Ne è caduto, ma è posato molto molto bene. Ciao Vittorio, carissimo. Ciao a tutti, ciao. No, non devo sento, sono alle 7 qua. Io alle 6, alle 6, da tipo un quarto. Ma ti compresi un dare che ci ha detto buff. Diciamo il periodo del strippo, in più c'è un fuoco, però è stata la temperatura. Oh yeah! Questa tu tiravo un freddo, l'hai scusa, va, aspetta. E dove sei che ha ammazzato tutti i topi? Ah no, certo, mi sanno, che si mette il dorso. Adesso lì, là, conviene fare pulizia e chiamare, non so, boh, qualcuno per fare qualche piazzetta, qualche un qualcosa lì, mettono una fontanella, che cosa, qualcosa faranno sicuramente. Ma quella cabina da lì la prendevano la corrente, anche quella cabina che c'è lì. Quanti gradi ha detto il sogno? 600. E tu? 100. C'era già il sogno. Oh, adesso 100 gradi, non 600. Ho detto 600. Ma hai dato sono 61 gradi per fa? Mi ha dato un po', non so, un po' così. 61 gradi, non so, l'accendino 100 gradi, so. Accendino? L'accendino 100 gradi, mi dà. Ah, comunque, non c'erano 600 gradi. Ha detto oltre 100 gradi. Prendete su gusti. E pure cagliano della cucina. Ho subito 600 gradi. 600 gradi, ma stai scherzando. Io ero a 150 metri di distanza, gli altri via un calore. Impressionante. Tu cosa vedi qua? No, io non l'ho sentito, però l'amianto è micidiale. Quando scalda arriva una temperatura micidiale. Micidiale? Allora, attenzione. Allora, l'amianto mantiene anche 600 gradi, capito? Riesce a tenere anche 600 gradi senza squagliarsi l'amianto. Io lo so, uccidi da me. Già lo so, sì, infatti gli ho detto a Pierpaolo. Ma è più pericoloso quando brucia che quando è accatastato, perché la polvere del fumo stesso è tossico, quindi non capisco come abbiano fatto a spegnere un incendio del genere senza evacuare la zona, boh, non riesce a comprendere. Ma dai, 100 gradi, è meno di un forno della cucina, 100 gradi, con quel forno che c'era lì che stava bruciando, 100 gradi, insomma, merda, luca, sì. 100 gradi sono bravi per fa. Scusa, sono un bel 100 gradi. Ti voglio vedere a te la camicia da 100 gradi. E come dovrei la ripulsa. Cosa ti dicendo? Sono un bel 100 gradi. Ciao Luca, quando andavo in Ferrera io, Ferrera su a Cagliari nell'acciaieria, acciaiava nell'ultimo altro ferro, me lo vici inclampavano dietro questi bastoni. Ed erano 100 gradi. E ci parava liquido, subito, quando ci trovava lì c'era liquido da far parte. Ed era 800 gradi, 800 gradi. Il mio forno che è ventilato arriva a 180 gradi, quindi cioè un forno arriva a 180 gradi, uno scaldabagno arriva a 90 gradi, un fuoco del genere con l'amianto lì acceso può essere lui. Io ti voglio fare la terza vicino a un forno a 100 gradi, vicino, ma è possibile, ce la fai, perché è troppo, ma comunque fa la sicurezza, ho capito male io, facciamolo riascolto, Rai 3, perché Rai 3 dice la sua, Antenna 1 dice la sua, Videolina dice la sua, c'è uno dice la sua. Cosa è successo, perché? Ci ha preso fuoco quella specie di una scuola, dai, di fronte alla, come ti chiama, alla Cobra, no, alla Cobra, lì alla Pedocci, dai, comunque. A parte le opinioni che uno può avere, quando c'è un incendio, un fuoco, anche quando accende il caminetto, quando la legna brucia, le braccia vanno a una temperatura di 650 fino a 1200 gradi, quindi questo è per sapere la temperatura del fuoco acceso, tant'è vero che tu ci metti il ferro dentro, lo fai rosso e fai il ferro battuto, lo fai mettendo in mezzo al bracciere, e quindi porti quasi a punto di fusione anche il ferro, quindi ma arrivano normalmente da 600 a 1200 gradi, quindi un incendio del genere possono esserci 800, 600, 1000 gradi, ma state parlando di amianto che ha preso fuoco, è evidente ha superato gli 850 gradi. Evidentemente, questa è la temperatura che si è messo in modo che si può fare minimo sono 500 gradi, ha chissato un tempo da tutto. Sì, comunque ho capito male io, perché ho capito 100 gradi, a Rai 3, poi buon osso, vabbè, gappa, purtroppo è così, e infatti in realtà la pizza ci sta 5, neanche 2 minuti, 3 minuti massimo, mette la cucina proprio veloce. Il gas, se tu hai un termometro ad alte temperature, lo metti nel fornello a gas che arriva fino a 1200 gradi, capito? Sì, mi tocca a pizza, vabbè, lo so, vabbè, comunque. Ma proprio per più che fa, voi ci non state preoccupati lì. Comunque ci sono una razza, lo sai, che ci sono piegate, perché ci sono grande in plastica, ma la città fa un bel calore che c'era. Ah, e a proposito, i palazzi che sono lentamente in stanza, alcune serranti, dai calore, ci sono piegate, ci sono curvate. Tu ti immagini di calore così a sì. Comunque per quanto riguarda che non c'è più sono d'accordo con te. Non sono d'accordo per la cosa che hanno creato, perché questo suono di questo fumo che abbiamo respirato ieri e che c'è ancora un odore qua che è incredibile, questa è tutta cosa che ci fa male. Ma hanno già detto ieri, formate un comitato lì di quartiere, fatevi togliere quella roba, guardate che è tossica, lo sto dicendo, noi abbiamo a che fare con i reagenti e con queste cose, ti sto dicendo l'amianto, quella roba lì è tossica, non riesco a capire come le forze dell'ordine, i vigili del fuoco stessi non abbiano evacuato la zona al momento in cui c'era l'incendio, perché chi era lì, stai pur certo che oggi non sta respirando come respirava ieri, te lo gioco di denti, è così, fatevi pulire tutto, andate in comune e fate pulire tutto, perché quella roba lì è tossica, se si mise a vento quella polvere lì bruciata è ancora più tossica di quando il materiale è intatto. Forno, anche se arriva a 180 gradi come lo scaldabagno è coinvettato, quindi nel forno e tu lo vedi tutto ricoperto in ferro, in coso. All'interno, se tu ti metti a rompere il forno, c'è tutta la lana di vetro, è tutto coinventato, quindi il calore rimane all'interno, esce un po' all'esterno tramite le fissure perché deve uscire, però i 180 gradi li sviluppa all'interno, non all'esterno. Quello elettrico che li vuole ancora di più. Però insomma con la pizza, lo sto leggendo perché la pizza italiana. Possono arrivare due fondi al massimo, possono arrivare anche a 400 gradi, 420. Però se funziona la pizza bene, per c'è un certo posto di essere almeno 350 gradi. Allora, alcuni forni per temperatura di cottura, per lavorare 3-4 ore cucinando, arrivano anche a 450 gradi. Poi ce ne sono alcuni che sono autopulenti, come quelli della Rochelier, eccetera. Quelli nel momento è un sistema catalitico, porta la temperatura a 780-800 gradi e carbonizza tutta la parte che c'è in grasso, allora tiri fuori. Questi forni catalitici sono. Estrai fuori col pennello, togli tutto e non trovi l'unto, capito? Perché viene bruciato dalla temperatura che va dai 7 agli 800 gradi. Appunto quelli autopulenti è un sistema catalitico, porta su la temperatura a 780, dai 7 agli 800 gradi, bruci tutta la parte lunga che ha lasciato intorno, poi questa parte, cioè rivestito il forno, sfini fuori, passi la polvere o uno scoppino e togli tutto, senza ungere di grasso niente, e quelli sono i forni autopulenti. Io ho te punti se lavoravo così. Stava cantando poco fa. Ehi, vabbè dai, c'è il microfono, vi saluto a tutti e chiudo. Ci sentiamo stasera se coincide. Ciao a tutti, Vittorio, Luca, Antonio, Pierpaolo, Antonio. Ciao ciao, me ne vado a riposarmi. Ciao. Livi, metti il microfono fuori dalla finestra, tu se ne sentono di più cantando. Lo so, ma questo è quello che sto io qua. Cos'è? Merlo in via? Aveva il merlo indiano che parlava, limonero, ma ti la metti a limonero. Quando ero in campagna di Montero già era una fretta, finestra aperta, ciu ciu ciu ciu clicchi. Eravamo in campagna proprio. Ah, questo è quello che sto dentro casa io. Capito? Il mazzo sta campando. La testa sta passando e gli sta chiamando. Sembra sempre in primavera. Oh, in questo periodo mi cavano sempre i rondoni dentro sul caminetto. Siccome il caminetto è chiuso dal vetro, il mio, sento casino, tocca sollevare il vetro per scapparne, ogni anno ne scappo 3-4, cavano lungo la canna fumaria e mi ritrovo dentro il caminetto. Allora, E ma non vanno essere abituati, perché anni addietro, una decina di anni fa, ti facevano un bel casino, 15 anni fa. Adesso proprio beccano col vetro, apri, non fanno niente, si mettono sul dito, stanno fermi sul dito, apri fuori la porta finestra, porta in terrazza, prendono il volo. No, manco, sono già addomesticati. Sì, ma per capire, ce lo tramandano uno l'altro, oppure spesso era la stessa coppia che caveva dentro più volte e nel ripetersi degli anni, perché all'inizio trillavano, facevano macello a prendere da dentro il camminetto per poi scapparli fuori. Invece adesso proprio non temo nulla, se scappo io, mia figlia, mio figlio, tu sono lesi, ma quando si mette il dito, si attacca al dito, apri il portafinestro, metti fuori e prende il volo. Proprio addomesticato. Sì, la maggior parte quando sono sempre chiusi sono così. In questi giorni sto dormendo poco niente e sono tutto scombinato. Devo pranzare ancora, mi resta vado a mangiare qualcosa. Allora, ho detto a tutti che non vado a lei. Ciao a tutti. Ciao a te. Per i francesi si intende, eh? Quando parlavo con Martine dei tempi. Stamattina ho parlato con Argentina, Uruguay e Paraguay. Stamattina. Una e mezza, alle due del mattino. È bello, no? Loro trasmettono verso quell'ora lì. Stavo parlando con la gente in banda laterale, arrivavano bene. Erano così, senza niente di particolare, né io né loro. A mangiare, sta chiamando zia Lalla, sentiamo. Ciao. Papà, mangia. Ciao. Ciao. Senti, ho il messaggio, 5 minuti, sono un po' stanco, va. Ciao. Il caffè è fatto, allora.